tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. E buon pomeriggio a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a questo Ponte Radio in quota Radio Wombat in questo venerdì di inizio settembre. E oggi spetta a me, al buon Tuco di Radio Wombat, nello specifico, se volete sentire le notizie di Balcani, ma in generale di geopolitica, con un occhio di riguardo sui Balcani, potete ascoltare l'Urlo dei Balcani su Radio Wombat, appunto, che in questo momento è fermo per la pausa estiva, rinizierà presto, però potete recuperare tutto sul sito di Radio Wombat.net. Potete ritrovare appunto tutti i podcast. E toccando a me oggi l'onere e l'onore di portare avanti la meraviglia della Ponte Radio fra le radio gemelle, sorelle, quel che vogliamo, parliamo appunto di Balcani insieme al buon Tuco. E quindi iniziamo ascoltando un po' di musichetta, preparo le ultime cose e poi partiamo a bomba, perché ci sono tante cose da dire, ci sarebbero tantissime cose da dire chiaramente, ma il tempo a nostra disposizione è limitato, quindi restate con noi per queste due orette scarse per ascoltare un po' di notiziole, appunto, Balcani e limitrofi, Europa, insomma, chiaramente non ci si può mai concentrare solo su una zona, perché il mondo è grande, interconnesso sempre di più, e quindi rimanete qui con noi per qualche curiosità. Wombat! Hey, good time, three men. Bring it home one day. Eccoci dunque al Ponte Radio, in quota Radio Wombat, parliamo di Balcani con il buon Tuco. E niente, ci sarebbe tantissime cose da dire, sappiamo il momento convulso in cui viviamo, in cui venti di guerra spirano, ma non solo, c'è proprio un cambiamento a livello globale, un riassestamento, un riequilibrio politico-economico di influenza, dato anche, accelerato, scusate, dalle politiche di Trump, che hanno un po' compattato tutti quei paesi, le altre grandi economie che stanno nell'altra parte del globo rispetto agli Stati Uniti d'America, che comunque in questi anni, i BRICS e non solo, che si erano avvicinati ma non trovavano veramente una quadra, tante cose, finalmente nel senso che hanno trovato dopo lungo tempo, stanno trovando una compattezza che non avevano trovato in precedenza, e questo chiaramente porterà dei cambiamenti a livello globale importanti. Purtroppo però, quando i paesi occidentali si sentono, non solo, però quando si sentono minacciati, tendenzialmente ricorrono alla guerra per tenere buona la popolazione, per indicare un nemico, per nascondere i problemi che poi invece hai sotto le lenzuola di casa. Insomma, momento convulso, notizia di giovedì, appunto, di droni invece russi abbattuti in area polacca, e che la Polonia, lo sapete, gli prudono le mani da sempre, da tanto. Ci hanno voglia di fare a cazzotti, chissà se poi prima o poi non saranno proprio loro con questa smania. Però al di là di questo, chiaramente ci sono varie questioni. Vorrei parlare in apertura di puntata, vorrei partire proprio dalla Polonia, e vorrei partire dalla Polonia, della Polonia con il rapporto con l'Ucraina, che è lì accanto e che non è mai stato florido. Anzi, il dibattito sui massacri di polacchi compiuti da ucraini durante la Seconda Guerra Mondiale è sempre più acceso in Polonia. Divergenze e memoria simmetriche rischiano di avvelenare le relazioni con l'Ucraina e complicare il suo avvicinamento all'Unione Europea. E chiaramente è una questione da tenere sott'occhio, perché comunque è un paese molto importante all'interno dell'Unione Europea, e tra l'altro, appunto, abbiamo visto come i paesi ai confini, diciamo, della NATO in qualche modo abbiano vengano un po' ascoltati. Comunque, al di là di questo, andiamo a sviscerare la questione. Partiamo da questo: la visita di Karol Nawrocki, che è il nuovo presidente della Polonia, al villaggio di Domostawa, nel voivodato della Precarpazia, una manciata di ore prima dell'inizio delle elezioni presidenziali, che lo hanno visto prevalere. Poi la decisione del Sejm, che è la Camera Bassa della Polonia, di istituire una nuova festa nazionale l'11 luglio, giornata della memoria per i polacchi vittime del genocidio commesso dall'UPA nei territori orientali della Seconda Repubblica. Infine, il film falsamente attribuito dall'intelligenza artificiale a Maria Andrushiv, un'attivista ucraina che vive in Polonia, che nega gli omicidi di polacchi avvenuti nel 1943 nella sua nativa Volinia. Vi ricordo che appunto una delle contestazioni verso l'Ucraina è appunto la presenza, il battaglione Azov in particolar modo, di molti neonazisti nelle file, soprattutto nelle file dell'esercito, ma non solo, e chiaramente questo ha portato lungamente a non essere completamente favorevole all'Ucraina se sostiene e tiene i neonazisti. Poi chiaramente la questione è ben più complessa che dire se ci sono o meno neonazisti o altro. Insomma, questi eventi, quelli della Seconda Guerra Mondiale, quelli della presenza del presidente, segnalano un'intensificazione dei dibattiti sulle difficili relazioni storico-polacco-ucraine. In effetti, la campagna presidenziale dello scorso maggio in Polonia è stata piena di discussioni sulle relazioni con l'Ucraina. È tornata ad aumentare l'attenzione nei confronti dei massacri ucraini contro una popolazione polacca residente in Volinia e nelle aree indicate dalla storiografia polacca come Piccola Polonia, cioè la Malopolska Wschodnia orientale durante la Seconda Guerra Mondiale. Alcuni candidati alla presidenziale polacca hanno aperto una apertamente criticato l'Ucraina e gli ucraini odierni per attaccarsi come parassiti al sistema sociale polacco, distruggere l'agricoltura polacca e trascinare in guerra la Polonia. Sappiamo delle questioni della vendita del grano e comunque in generale dell'agricoltura, che chiaramente le produzioni ucraine sono state acquistate più facilmente a minor prezzo perché per sostenere l'Ucraina nella sua difesa, e questo ha indispedito molto gli agricoltori polacchi che sono proprio lì al confine, perché chiaramente se c'è un prodotto che costa molto meno sei costretto a tua volta a abbassare i prezzi, insomma, e questo chiaramente ha creato delle confusioni, anche perché dei problemi, delle problematiche. Anche perché, come sappiamo, i confini sono sì scritti sulla mappa e purtroppo ci sono sempre più muri che li dividono, ma di base i confini sono qualcosa di aleatorio e chiaramente le merci, le persone di base poi ci passano e è tutto connesso. Non è che un confine poi delimita e divide totalmente un mondo da un altro mondo. Altri come Sławomir Mentzen, candidato del partito di estrema destra Confederacja, hanno concentrato i loro attacchi proprio sulla storia. Anche il principale candidato della destra, Kelor Navroki, del partito conservatore Diritto e Giustizia, ha scelto di sposare la retorica di Mentzen, non solo firmando dichiarazioni contro l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea e alla NATO, ma entrando più volte in aperta polemica con politici ucraini sul tema della Volinia. Vale la pena ricordare che Navroki era il presidente dell'Istituto della Memoria Nazionale, principale vivaio del nazionalismo delle istituzioni statali polacche, perché comunque sappiamo anche la Polonia è stata attaccata, smembrata, attaccata da tutti, e però poi dopo dentro ha avuto un movimento collaborazionista con il nazismo veramente grande, e nel tutt'oggi non si è scordata quella parte, anzi tutto sommato è stata riportata in vita, nonostante poi ci siano a Varsavia grandi monumenti per la lotta contro il nazismo, alla resistenza interna, però ci sono anche dei musei che ricordano questa parte di resistenza, questa parte di polacchi che poi in realtà tutto sommato collaboravano. Era strano, e questo è strano, questa ambivalenza, e si rivede nella politica chiaramente interna. Il ritorno del tema dei massacri della Volinia nel dibattito pubblico polacco può essere visto come una combinazione fra dispute storiche irrisolte, una legittima ricerca di giustizia da parte di comunità che subirono violenza e una strumentalizzazione del passato da parte delle forze nazionaliste. Non vedo errori. Tutto questo viene agitato all'interno del contesto già di per sé complicato creato dall'invasione russa dell'Ucraina. Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 43 e il 45, le forze nazionaliste ucraine, tra cui principalmente l'esercito insurrezionale ucraino, l'Ukrainska Povstanska Armija, uccisero decine di migliaia di polacchi etnici, molti dei quali donne e bambini. Secondo Jared McBride, autore del saggio Peasants into Perpetrators, The Ouna Upa and Ethnic Cleansing of Volinia, 43-44, le vittime furono circa 50, tra i 50.000 e i 60.000, mentre la Polonia definisce questi eventi come genocidio, l'Ucraina continua a rifiutare tale termine. Alcuni storici ucraini, da parte loro, sottolineano la lunga storia delle politiche di polonizzazione portate avanti nei territori orientali della Seconda Repubblica Polacca, nel periodo tra le due guerre mondiali, con cui si cercava di assimilare o marginalizzare ruteni e ucraini, alimentando l'odio tra le due comunità. Secondo lo storico statunitense Timothy Sidney Snyder, è indiscutibile che oltre alla perdite dirette dell'Olocausto e della Seconda Guerra Mondiale, circa tra i 50.000 e i 100.000 polacchi e ucraini furono uccisi e circa 1,5 milioni furono costretti a lasciare le loro case tra il 43 e il 47. Lo storico canadese Jean-Paul Imka ci spiega che l'atteggiamento del governo polacco verso gli ucraini e altre minoranze si irrigidì sempre di più nel corso degli anni 30, sotto il governo dei cosiddetti colonnelli. La repressione polacca alimentò il nazionalismo ucraino e i nazionalisti ucraini cominciarono a desiderare l'uccisione di un gran numero di polacchi nei territori etnicamente ucraini, con l'idea di assimilare poi i superstiti. A suo avviso, un altro fattore importante fu il contestato generale che vedeva il contesto generale che vedeva un ampio ricorso alla violenza anche da parte dei vicini della Polonia, la Germania nazista e l'Unione Sovietica stalinista dall'altro lato. Da questo contesto l'universo morale all'interno della Polonia cambiò radicalmente, sostiene Imka, sebbene gli sviluppi del periodo interbellico non abbiano indeterminato in modo univoco il tipo di violenza che ha investito la Volinia e la Galizia, hanno comunque stabilito alcuni parametri. Altri storici ucraini evidenziano anche casi di violenza etnica di ritorsione che si verificarono, sebbene su scala minore, contro civili ucraini negli stessi anni e nel primo dopoguerra. In particolare l'operazione Vistola, Aksja Wisła, lanciata dalle autorità comuniste polacche nel 1947, che condusse alla deportazione di oltre 140.000 ucraini e persone di etnia Lemko dal sud-est della Polonia ai cosiddetti territori recuperati. Nel nord e ovest del paese, in precedenza appartenuti alla Germania. L'obiettivo della deportazione era eliminare la base di sostegno che rimaneva dell'UPA e sopprimere l'identità ucraina. L'operazione Vistola è ricordata in Ucraina come un atto di repressione etnica e un trauma collettivo. L'elezione di Karol Nawrocki alla presidenza della Polonia ha contribuito a portare ancora maggiore attenzione alla questione della memoria e all'eredità dei massacri compiuti in Volinia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nawrocki, uno storico di orientamento conservatore, ha fatto della giustizia storica un tema centrale della sua campagna elettorale. Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da presidente eletto ha accolto con favore la continuazione delle cooperazioni con l'Ucraina, ma ha sottolineato che essa deve includere la risoluzione delle questioni storiche in sospeso, un chiaro riferimento alla lunga disputa sulle uccisioni in Volinia. Il Sejm polacco le ha ufficialmente dichiarate genocidio nel 2016, abbiamo detto la Camera Bassa, dopo anni di pressioni esercitate proprio dall'Istituto della Memoria Nazionale che era presieduto dallo stesso Nawrocki. Nel suo libro Memory Crash, Politics of History and Around Ukraine, dal 1980 al 2010, lo storico ucraino Georgiy Kasyanov scrive: a prescindere dall'orientamento politico di individui e partiti al potere, le elite governative di entrambi i paesi, cioè la Polonia e l'Ucraina, considerano come una priorità assoluta avere relazioni amichevoli e cooperative con il vicino. Polonia e Ucraina sono riuscite a trovare soluzioni reciprocamente accettabili in quasi ogni ambito, comprese le relazioni economiche, politiche e culturali. C'è solo un'eccezione, la sfera della memoria. Lo storico ucraino Jaroslav Ristak concorda sostenendo che il massacro della Volinia e l'UPA sono gli unici ostacoli reali alla riconciliazione polacco-ucraina. Abbiamo a che fare con miti nazionali e molto asimmetrici, ci spiega. Certo, non è l'unico problema, perché il problema sono i partiti di ultradestra nazionalisti che rinfocolano queste questioni, non si riesce a superarle, forse proprio perché ci sono all'interno di questi due paesi questi movimenti. Ci vorrebbe un cambiamento delle menti. Al di là di questo, negli ultimi 10 anni circa il massacro della Volinia è diventato un mito centrale nella memoria storica polacca, un po' come l'Olocausto per la memoria ebraica o l'Holodomor per quella ucraina. Al contrario, nella memoria storica ucraina la Volinia occupa un posto piuttosto marginale e molti ucraini hanno solo una vaga idea di cosa sia realmente successo. Sono certo che fino a poco tempo fa Zelensky sapesse molto poco, se non nulla, del massacro della Volinia, questo lo dice Ristak. Gli ucraini non capiscono perché le elite polacche, che dovrebbero essere loro alleate, continuino a sollevare questa questione mentre l'Ucraina si trova in guerra contro la Russia. Sospettano che potrebbe essere il risultato di un'interferenza russa. Ristak ha personalmente organizzato o partecipato a diversi eventi volti a riconciliare polacchi e ucraini, sebbene alcune di queste iniziative siano finite con successo. Quelle dedicate specificatamente alla Volinia sono state, a suo dire, dei fallimenti spettacolari. La sua amara esperienza lo porta a credere che la possibilità di conseguire una riconciliazione su questa vicenda siano molto scarse. Serviranno molto più tempo e impegno. Lo storico polacco... questo è difficile. Leszczynski, la cui famiglia fu direttamente colpita dagli eventi della Volinia, offre una prospettiva. Tra l'altro lui e suo nonno da bambino dovette nascondersi nella foresta dopo che tutta la sua famiglia fu uccisa. ci offre una prospettiva personale netta sulla questione. Conosciamo i fatti e possiamo discutere sulla terminologia. Si è trattato chiaramente di un crimine di guerra, molto simile a una pulizia etnica. Il dibattito ora ruota attorno al fatto che si tratti o meno di genocidio. Rientra nella definizione legale più rigorosa? Alcuni dicono di sì, altri no. È un dibattito complesso. C'è stata una pressione enorme sull'Ucraina negli ultimi 10-15 anni affinché presentasse delle scuse. Zelensky lo ha fatto, forse con un po' di riluttanza. Anche uno dei suoi predecessori ha espresso rammarico, ma ci sono voci in Polonia che sembrano aspettarsi che gli ucraini si scusino all'infinito. Negli ultimi mesi la questione della memoria delle violenze in Volinia è però giunta a un punto di svolta. Nel gennaio del 2025 il governo ucraino ha revocato un divieto di fatto alle riesumazioni dei resti delle vittime che erano in vigore dal 2017, permettendo di riprendere il lavoro di recupero delle fosse comuni. La decisione è stata accolta in Polonia come una svolta attesa da tempo. Le prime esumazioni sono iniziate nell'aprile del 2025 nell'ex villaggio polacco di Puzniki, con il coinvolgimento di esperti di entrambe le nazionalità e chiaramente parenti e vittime. C'è almeno un terzo attore però che interferisce nelle relazioni tra Ucraina e Polonia, la Russia di Vladimir Putin. Inutile dire che la propaganda russa sfrutta spesso qualsiasi tema che possa deteriorare il rapporto tra l'Ucraina e i suoi alleati. Il tema dei massacri in Volinia è da anni al centro dell'attenzione russa perché è un carburante perfetto per la propaganda anti-Ucraina. Certo, consente di presentare l'Ucraina come una nazione di criminali che prima uccidevano in Volinia e ora fa lo stesso in Donbass, perché i due contesti siano evidentemente del tutto scollegati. Chiaramente si capisce perché la Russia dica queste cose. Chiaramente non è che è roba che si tirano fuori dal cappello e che non esiste. Si sono appigliati a questioni però realmente successe, sia in Volinia che in Donbass. Il tema dei crimini commessi dai nazionalisti ucraini in Volinia, Podolia, Polesia e nelle regioni di Leopoli nella primavera del 43, dalla primavera del 43 all'estate del 44, è sempre stata presente nella sfera pubblica polacca, ma mai con questa intensità. Negli ultimi anni i circoli nazionalisti e le destre polacche in senso più ampio sono riusciti ad attirare maggiore attenzione sulla questione, su questi massacri. Hanno giocato un ruolo anche le cosiddette comunità dei confini orientali, in particolare il sacerdote cattolico armeno Tadeusz Izakovics Zalensky, sebbene marginale, questo movimento è stato piuttosto attivo nell'andare oltre i tradizionali ambienti dell'estrema destra e arrivando a pubblicare articoli sulla rivista di centrosinistra Przegląd. Vale la pena ricordare che Leszek Miller, ex primo ministro socialdemocratico, ha assunto una posizione apertamente scettica verso l'Ucraina, piena di risentimento storico. Un altro fattore che ha alimentato il tema voliniano in senso ampio è stato lo spostamento verso destra del clima politico in Polonia. Già durante la presidenza del centrista Komorowski, che ha governato dal 2010 al 2015, i massacri della Volinia furono da lui definiti come un evento con le caratteristiche di genocidio. Insomma, questa è una roba annosa che si portano avanti. Il tema è infine approdato anche nella cultura popolare. Wojciech Smarskowski, un regista noto per i suoi film critici, ha realizzato un'opera dal titolo semplice e significativo, Volin, sebbene l'autore rifiuti ogni forma di revanchismo. Cioè ha fatto un film proprio su questa questione, però dice: no, però io ragazzi non ho fatto una roba d'estrema destra, non l'ho fatto per dire che i polacchi sono i migliori ma che debbano guerreggiare con gli ucraini, ma ho fatto solamente un film di memoria. Un sondaggio dell'opinione pubblica polacca condotto nel 2023 dall'agenzia BOS mostrava che, per quanto la maggioranza delle persone intervistate riconoscesse l'esistenza di divisioni fra Ucraina e Polonia per ragioni storiche, il 31%, 5 anni prima era il 23%, quindi è cresciuto, credeva nella possibilità di un'amichevole coesistenza fra le due nazioni, sgravata dal peso del passato, e il 78% delle persone interpellate si diceva convinta della possibilità di una riconciliazione. Un'indagine condotta l'anno successivo da parte del centro Mierowzenski mostrava però che il 40% dei cittadini della Polonia, convinto che ci fossero eventi storici per cui gli ucraini avrebbero dovuto sentirsi in colpa nei confronti dei polacchi ancora oggi, sono convinti di questo. La popolazione polacca riconosceva però di possedere una conoscenza piuttosto superficiale delle relazioni storiche fra il proprio paese e il vicino ucraino. Un terzo degli interpellati dal centro Mierowski aveva solo sentito parlare delle violenze compiute dall'esercito insurrezionale ucraino, e un altro terzo non sapeva proprio di cosa si trattasse. Appena il 25% degli interpellati sosteneva di avere una conoscenza approfondita dell'operazione Vistola. e la maggioranza degli intervistati ammetteva di non aver mai sentito parlare delle organizzazioni di nazionalisti ucraini da cui nacque l'UPA. Secondo questo sondaggio, circa il 90% dei polacchi intervistati sosteneva di conoscere o perlomeno aver sentito parlare dei massacri di Volinia, contro il 59% che era stato rilevato nel 2008, quindi c'era stata più informazione. Perché? Perché è entrato nell'agenda della propaganda della destra. Ancora di più, stando a un sondaggio che governa il paese o è in Parlamento, stando a un sondaggio condotto da SV Research nel settembre del 2024, il 53% dei polacchi interpellati era convinto che l'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea avrebbe dovuto essere subordinato all'accettazione da parte dell'Ucraina a procedere con le esumazioni delle vittime, cosa che infatti è stata fatta. Una larga fetta della società polacca sembra assai suscettibile al mito di far parte di una nazione eternamente offesa dagli stranieri. Se i massacri avvenuti nelle regioni orientali sono ormai rilevanti nel dibattito pubblico in Polonia, poco o nulla vengono infatti discusse le pagine oscure della storia polacca in relazione alla popolazione ucraina. Si legge insomma il passato solo in chiave vittimistica invece di riconoscere le responsabilità per gli episodi in cui furono i propri connazionali o istituzioni a svolgere il ruolo di carnefice. A questo proposito, oltre all'operazione Vistola, si può ricordare la distruzione delle chiese nella regione di Klem durante il periodo fra le due guerre mondiali. Ogni primo marzo in Polonia si celebra la giornata nazionale della memoria dei soldati maledetti, che commemora i militanti delle organizzazioni clandestine anticomuniste attive nel paese al termine della seconda guerra mondiale. Si tratta di un'iniziativa controversa, dal momento che mette sullo stesso piano reali vittime dello stalinismo con persone che invece portarono avanti attacchi contro minoranze etniche o contro i contadini che avevano beneficiato della riforma agraria. Fra i soggetti che furono colpiti c'erano ebrei, bielorussi, lituani, slovacchi e molti ucraini. La riscoperta e l'attenzione nei confronti dei massacri di Volinia riflettono alcuni processi politici e culturali più ampi scatenati dalla caduta del socialismo. Come ebbe a notare allora il dissidente storico e politico polacco Geremek, il ritorno della libertà portava con sé anche il ritorno del nazionalismo. La storia di ciascun paese venne infatti spesso reinterpretata secondo un paradigma nazionale. Ma nel caso degli eventi in Volinia le dinamiche non sono così lineari. Fra Ucraina e Polonia si registrò un momento di iniziale unità che lasciò poi via via il passo ai conflitti sulla memoria storica e identitaria. Un passaggio della riconciliazione alla deconciliazione, come lo definiscono gli storici polacchi e ucraini, Strijek e Koniedna Salamatin sono i due storici che parlano di questo. Già negli anni 50 il gruppo di intellettuali polacchi esuli che si riuniva attorno alla rivista con sede a Parigi, Cultura con la K, aveva iniziato a spendersi affinché la Polonia rinunciasse a qualsiasi pretesa di reintegro dei territori che con la seconda guerra mondiale erano passati all'Ucraina e al resto dell'Unione Sovietica. Un'impostazione che venne fatta proprio anche dal movimento di Solidarnosc nell'89, Adam Michnik, consigliere di Lech Walesa, prese parte al congresso fondativo del Movimento Nazionale Ucraino, il RUK, e proclamò che il popolo polacco sarebbe stato a fianco di quello ucraino nella sua lotta per separarsi dall'Unione Sovietica. Lo storico italiano Krainz, che di recente ha pubblicato un libro dedicato proprio alla disputa della memoria nel continente, cioè Ombre d'Europa, commenta: la contrapposizione alla Russia aveva creato la possibilità che Ucraina e Polonia facessero un fronte comune per liberarsi da Mosca, ma allo stesso tempo il medesimo processo rafforzava il movimento nazionale dei due paesi, che a loro volta avrebbero gettato le basi per una rilettura della storia in ottica nazionalistica. È chiaro che nei rapporti fra Varsavia e Kiev non sorgono problemi nel caso in cui, per esempio, la seconda commemori l'Holodomor. Tuttavia, le tensioni emergono nel momento in cui l'Ucraina, pure in un'ottica di contrapposizione alla Russia, inizia a celebrare figure come Steven Bandera, il cui esercito, oltre ad avere collaborato con i nazisti, prese parte anche ai massacri in Volinia. Questo vi parlavo in apertura. C'è da dire però che le dispute tra Polonia e Ucraina emersero compiutamente solo a partire dagli anni 2000, quando in entrambi i paesi andarono al governo forze politiche che sostenevano la necessità di promuovere una politica nazionale della memoria, cioè il PIS in Polonia e Yushchenko in Ucraina. C'è una dimensione europea. Nei primi anni 2000 anche l'Unione Europea stava cominciando a sviluppare politiche della memoria con l'intenzione di favorire il dialogo fra la memoria in paesi diversi. L'allargamento est nel 2004 iniziava a mettere in discussione il consenso rispetto alla Shoah e alla sconfitta del nazifascismo come eventi fondanti per l'integrazione europea, visto che i nuovi stati membri insistevano sul riconoscimento dei crimini sovietici, cioè l'allargamento nel 2004 verso est dell'Unione Europea ha messo in discussione, non solo quello, la compattezza dell'Unione Europea, che era nata proprio anche e soprattutto, e anche, cioè nasce come questione economica, però la parte che poi mai avvenuta di una unione invece, diciamo, di anime, è andata a disgregarsi e accantonare il fatto che è stata la lotta contro il nazifascismo poi a compattare le anime europee, e oggi vediamo appunto dove siamo arrivati, dove ormai i crimini nazifascisti tutto sommato sì, sono stati pesi, ma alla fine si esagera un pochino, anzi hanno fatto anche cose che forse rivorremmo, no? E questo non vale solo per l'Italia, il nostro paese, ma vale per tanti paesi, e anzi forse per quasi tutti i paesi europei, europei o che vogliono entrare in Europa. Il fallimento del referendum sulla Costituzione europea tenutosi in Francia nel 2005 instillò poi presso le elite europee la sensazione che la sola integrazione economica non fosse più sufficiente. Lo sappiamo, non è stato fatto. Anche la questione dei massacri in Volinia si intreccia con le politiche europee, non riguarda le sole relazioni bilaterali fra Ucraina e Polonia. Lo stesso presidente polacco Navrocki si è detto intenzionato a porre il veto sull'ingresso dell'Ucraina qualora non dovesse riconoscere le proprie responsabilità in quella tragedia e non si dovesse procedere alle esumazioni. Bruxelles dovrebbe giocare un ruolo in tutto questo, come sempre non giocherà nessun ruolo probabilmente. Allo stesso tempo non va dimenticato che stiamo parlando di una disputa storica che non può essere risolta per decreto o per mezzo di voti parlamentari. Il compromesso politico è infatti l'opposto della riflessione critica sulla storia. I diversi punti di vista dovrebbero dialogare attraverso l'approfondimento, la ricerca e l'analisi. Aline Sierp si è occupata estesamente dei temi riguardanti la storia e la memoria di ottica europea. Secondo lei il modo in cui le nazioni guardano al proprio passato è di fatto un criterio per capire se un paese sia pronto o meno a diventare membro dell'Unione Europea, e quindi però a questo punto allora anche se stare o meno dentro l'Unione Europea noi verremmo buttati fuori per inciso. No, non è vero, non è vero, perché poi non è vero che l'economia la vai e lasci fuori. L'economia è la parte fondante e continua a essere l'unica cosa che tiene veramente insieme l'Europa, purtroppo, perché non è sufficiente e non sarà sufficiente. La presidenza Navrocki in Polonia potrebbe segnare una svolta per quanto riguarda il conflitto delle memorie sui massacri in Volinia. Se alcuni sperano che il suo passato da direttore di un istituto dedicato alla memoria storica possa aiutare a sfruttare in maniera positiva il dibattito, altri temono un inasprimento delle posizioni nazionalistiche. Fra i maggiori critici del presidente c'è per esempio Volodymyr Viatrovich, ex direttore dell'Istituto per la Memoria Nazionale in Ucraina. Dal canto suo Viatrovich è stato accusato di aver rimosso o minimizzato i crimini commessi da Lupa nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Secondo lo storico ucraino Kasianov, la riabilitazione dell'UPA è stata promossa anche nell'ottica di contrastare il comunismo, ovvero l'eredità sovietica, ovvero la Russia, perché si continua a dire che la Russia è l'Unione Sovietica, si continua a fare questa confusione quando, per quanto vadano fatte tutte le analisi giuste sull'Unione Sovietica e sui morti che ci sono stati, per varie ragioni, lo sappiamo benissimo, soprattutto in era stalinista, ma non solo, non stiamo parlando della stessa cosa. La Russia è un paese, come si suol dire, turbocapitalista, l'Unione Sovietica era l'Unione Sovietica, l'Unione di Repubbliche Socialiste, quindi non si possono dire uguali, e non si può dire che se si combatte la Russia si combatte l'Unione Sovietica o viceversa. Sia Istak che Lazienski menzionano il processo di riconciliazione franco-tedesco dopo la Seconda Guerra Mondiale come un modello per la Polonia e l'Ucraina. Lazienski menziona anche il processo di dialogo fra Polonia e Germania. È necessario riconoscere che esistano responsabilità da entrambi i lati. Dopodiché è giusto prendere in considerazione che anche gli ucraini su scala minore sono stati uccisi e che il movimento nazionalista ucraino era stato perseguitato nel periodo tra le due guerre, così come riconoscere che nel dopoguerra gli ucraini in Polonia erano cittadini di seconda classe. Insomma, bisogna ricostruire il quadro completo senza omissioni, così che a partire da quello le due parti possano ammettere le proprie responsabilità. Però questa roba qui, cioè, non è che è buonsenso. Non è fantascienza. Similmente per IMCA, l'unico modo per andare avanti e indagare e accettare tutto ciò che è successo senza utilizzare categorie semplicistiche e manichee. Non ci sono esclusivamente eroi o cattivi in questa storia. Naturalmente IMCA è nota che è un compito difficile da portare avanti nel contesto bellico attuale. Insomma, questa è un po' una panoramica sul rapporto fra Ucraina e Polonia, perché continua a essere così complicato, perché se si parla di Ungheria, dice vabbè, Orban si capisce, filo russo, è chiaro, ce l'ha con l'Ucraina, ma perché la Polonia, che invece è antirussa, ce l'ha con l'Ucraina? Ecco il motivo, ecco uno dei motivi, via. Però, visto questo revisionismo, questo non affrontare fino in fondo le tematiche, farò un po' di confusione, devo spostare questo microfono. Allora, scusate, si sposta così, molto meglio. Chiedo scusa. Oh, sta venendo un mal di collo micidiale. Allora, parlando appunto di revisionismo, ci spostiamo invece in un attimino solo, in Moldova, perché c'è un nuovo manuale scolastico in Moldova che presenta l'Olocausto in modo problematico, minimizzando e relativizzando le responsabilità dell'allora autorità romena. Uno sviluppo che riporta in superficie la rielaborazione controversa di quei fatti nel paese. A fine luglio di quest'anno, i dintorni del palazzo presidenziale della capitale Moldava si sono riempiti di tracce e segni di vario tipo, che riguardavano tanto la memoria del passato che le aspirazioni per il futuro del paese. Sull'ampia distesa di asfalto che fronteggia l'edificio istituzionale, infatti, si possono notare due vagoni treno parcheggiati. È un museo temporaneo dedicato alle vittime delle deportazioni in epoca sovietica, al terrore di Stato che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha interessato decine di migliaia di abitanti della Bessarabia, forzatamente dislocati nelle steppe remote della Siberia oppure nelle zone desertiche dell'Asia centrale. La Moldova di oggi invece guarda decisamente più a ovest, come è testimoniato dal gigantesco standard dell'Unione Europea che è stato posto accanto a quello nazionale a coprire finestre e pareti della sede governativa. Il paese ha ottenuto da 2 anni lo status di candidato per l'ingresso all'Unione Europea, ne abbiamo parlato svariate volte, anche perché proprio per le questioni e le proteste ci sono state in Moldova, nell'Urole dei Balcani. Lo trovate su radiowombat.net. Eppure, giusto qualche metro più in là, si vede ancora il palco utilizzato per un concerto che ha destato non poco scalpore, perché tacciato di essere nient'altro che un episodio di propaganda a favore di Putin, che tra l'altro era propaganda, no, verso un presidente, verso una persona, che è ancora più grave che una propaganda verso un paese, in qualche modo, perché lui è il grande cattivo. A esibirsi, invitati dal politico d'opposizione USAT, c'erano infatti i popolari rapper russi Makan e Basta, che non hanno mai condannato l'invasione dell'Ucraina. Il secondo in particolare era stato dichiarato persona non gradita dalle autorità di Kiev dopo essersi esibito nella penisola occupata della Crimea. Numerose persone, soprattutto giovani, sono stati attirati dalla musica, mentre alcuni parlamentari hanno protestato la decisione del comune di Chisinau di concedere l'autorizzazione per l'evento, reputandolo oltraggioso il fatto che si svolgesse proprio di fianco alle testimonianze in onore dei deportati in epoca sovietica. O che si sono russi, non sono sovietici, vabbè. Sono le normali contraddizioni di un territorio che negli ultimi 150 anni ha visto alternarsi diversi imperi, culture e occupazioni, e che come altri nell'area si è di recente visto travolto anche dai dibattiti storici che accompagnano il vicino conflitto armato lanciato dal Cremlino. Ma non tutto è riconducibile a influenze esterne o a cascami di un passato socialista che il paese starebbe cercando di superare, anche in vista dell'integrazione europea. Infatti, per quanto meno visibile nello spazio pubblico, in Moldova è in corso una delicata polemica che riguarda la memoria dell'Olocausto della popolazione ebraica e il suo insegnamento nelle scuole. Siamo ormai piuttosto frustrati al punto da considerare la possibilità di citare in giudizio il Ministero dell'Educazione. Questo lo dice Aliona Grossu, direttrice della comunità ebraica locale. Mentre parla, si sente in lontananza della musica folclorica. Sta per iniziare un festival che anima il centro cittadino. La sede della comunità è costruita nell'area dove un tempo sorgeva la vecchia sinagoga, area mai restituita dallo Stato ma riacquistata, riacquisita per via finanziaria. Abbiamo avuto incontri con rappresentanti parlamentari per settimane, ma si sono conclusi con un nulla di fatto, cioè ci sembra che le nostre esigenze non vengano prese in considerazione. L'oggetto del contendere è la pubblicazione di un libro di testo per le scuole superiori in cui la tragedia dell'Olocausto viene trattata in modo problematico. In particolare, stando alle critiche che sono state mosse al manuale da parte dei vari istituti internazionali come l'ente israeliano per la memoria della Shoah, Yad Vashem, interpellato proprio in seguito alla contestazione, vengono distorti alcuni fatti e minimizzate le responsabilità di diversi criminali di guerra, come l'allora capo di Stato rumeno Antonescu. Quest'ultimo collaborò attivamente con le forze naziste per portare a termine l'eliminazione della popolazione ebraica nell'area, circa 300.000 persone, che erano appartenenti anche ad altre comunità, vennero uccisi durante i massacri avvenuti nelle diverse città della Bessarabia o attraverso la deportazione nei ghetti e nei campi di concentramento stabiliti in Transnistria. Ma nel manuale viene detto che mise in campo tali politiche semplicemente perché messo sotto pressione da parte del Reich. Nel momento in cui vengono descritte deportazioni ed istituzioni di ghetti, non vengono menzionate le autorità incaricate di quel compito. Inoltre, pur caratterizzandole con accenti negativi, il testo glissa sulla popolarità e sul ruolo del gruppo paramilitare fascista e antisemita delle Guardie di Ferro verso la fine degli anni 30. È uno sviluppo per certi versi paradossale, spiega ancora la direttrice, che sta chiedendo di ritirare il manuale e di riscriverlo. Per anni abbiamo cercato di fare in modo che l'insegnamento dell'Olocausto diventasse materia obbligatoria nelle scuole, come nella vicina Romania. Sebbene ciò non sia ancora stato possibile, è stato compiuto qualche passo avanti, come l'introduzione di attività educative complementari. Ma il libro di testo in questione, che finalmente amplia la sezione dedicata alle vittime dell'occupazione nazista e alla collaborazione, rappresenta un clamoroso retromarcia, perché parla in maniera sbagliata di tali eventi, quindi è inutile approfondire se approfondisci male. Oltre alla controversia in sé, il problema sono anche le relazioni da parte del governo e dell'ambiente accademico. Grossu denuncia la presa di posizione di molti studiosi a favore del manuale, così come l'atteggiamento dei rappresentanti parlamentari che, se da un lato aprono tavoli di discussione con la comunità ebraica, dall'altro si pongono spesso sulla difensiva, strumentalizzando magari un'altra tragedia, quella già citata della deportazione sovietica, come giustificazione per le reticenze riguardo l'Olocausto. A essere onesto, non siamo rimasti troppo stupiti dalle vicende e dalle sue evoluzioni, racconta Negura, ricercatore in storia e sociologia presso l'Università Statale di Moldova e l'Università Tedesca di Regensburg, nonché firmatario assieme di altri colleghi e connazionali in una lettera aperta di contestazione appunto al testo. Nel nostro paese il discorso sul passato è dominato da tendenze piuttosto conservatrici e nazionaliste. Anche noi, d'altronde, quel manuale è stato scritto e successivamente letto e approvato da persone impiegate nell'ambiente accademico, senza che le distorsioni relative all'Olocausto in Bessarabia e Transnistria destassero problemi. Non è un caso, forse, che l'iniziativa di prendere parola pubblicamente contro la visione presentata dal manuale sia stata portata avanti solo da studiosi moldavi, impiegati però all'estero, non nelle università all'interno del paese. Secondo Negura, in questi ultimi anni il paradigma nazionale che prevale nelle interpretazioni storiche in Moldova è ulteriormente esacerbato dall'invasione russa. Il conflitto in Ucraina ha intensificato la tendenza a considerare la politica della memoria al pari di una missione che molto spesso viene portata avanti in funzione di smaccatamente antirussa e antisovietica, da cui talvolta la minore enfasi posa sui crimini avvenuti durante l'occupazione nazista. Ma quanto di sbagliato sta facendo oggi il Cremlino non dovrebbe giustificare la strumentalizzazione della storia del secolo scorso. Anche Grossu non esita a ravvisare una pericolosa propensione al revisionismo nell'atteggiamento dimostrato dalle istituzioni moldave e chissà più in generale dalla maggioranza della società. Da un lato non si vuole affrontare la questione della collaborazione, anche se poi presso la popolazione della Bessarabia c'è chi ha conservato la propria umanità e si è guadagnato il titolo di giusto fra le nazioni, dall'altro spesso mancano proprio ricerche e informazioni di base, c'è un problema con i dati e con le fonti. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, non ci sono segni di un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni moldave. Con tutta probabilità il manuale sarà nuovamente sui banchi degli istituti scolastici superiori del paese. E questa appunto era un'altra siamo in momenti convulsi, il nostro rapporto un po' di tutti con il passato, con la memoria, è sempre più complicato, anzi viene sempre più strumentalizzato dalle destre del mondo per polarizzare e indicare un nemico per capitalizzare a quel punto il consenso che tu hai quando riesci a indicare chiaramente cosa si deve fare per migliorare. Basta sconfiggere quel nemico là, guarda, quello lì. E questo chiaramente ha delle ripercussioni in tutti i paesi e sulla memoria. Abbiamo visto Polonia, abbiamo visto Ucraina, abbiamo visto Moldavia. Ci fermiamo un attimino, ma continuiamo a parlare di un po' di queste di ripercussioni del conflitto russo-ucraino all'interno del Caucaso in generale. Quindi rimanete qui con noi, questo è il Ponte Radio Wombat. Danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljivu mozaka. Mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odljivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Kažu što je babi milo, to joj se i snilo. Kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu nemoj vode vruć, kod nas tropu ubija. Igrali smo dobro, ali zajebo nas sudija. Odrave, kažu ako nema štab, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke gluplje nego tuke i brinete. I da opus bude bolji s kašikom vegete. Kažu neće nikad prestat glave da nam pune. Sve dok je ovaca neće palit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizi smo udice. Glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu. I da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine. A ja glasom za kafanu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana. Širana voda. Kažu da uz pjesmu efikasnije se trlja. Čudotvorni sapun protiv tvrdokornih mrlja. Kažu neće nikad prestat glave da nam pune. Sve dok je ovaca neće palit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizi smo udice. Glave nam u pjesku nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu. I da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine. A ja glasom za kafanu i marihuanu. Smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana. We'll be right back. Oh, eccoci. Eccoci qua. Questo è il Ponte Radio. Parliamo un po' di Balcani. Abbiamo parlato di un po' questioni di memoria. Questioni di memoria. Come si dice? Questioni di memoria. Usata come propaganda, via, diciamo così, fra Polonia e Moldavia. Volevo velocemente parlare di questo. Sappiamo bene che entrambi i fronti nella guerra russo-ucraina fanno uso di reclutamenti forzati, divieti di espatri. Questo vale più per l'Ucraina che per che la Russia. Non ha il divieto di espatrio, la Russia non ha bisogno, mentre l'Ucraina sì. Ma soprattutto il tanto contestato, cioè il tanto contestato, quello che ha creato scalpore fin dall'inizio, perché si mischiava alla propaganda antirussa, era la questione dell'arruolamento di criminali, che invece di scontare la pena vanno a combattere, per poi ricevere grazie o la diminuzione delle pene. Niente, c'è questo dibattito che sta tornando in auge perché anche la TV russa ne parla, anche in Russia se ne sta parlando di questa cosa. Numerosi episodi dal Caucaso settentrionale confermano il sistematico reclutamento per il fronte ucraino di persone con gravi precedenti penali o in condizioni vulnerabili. I media russi hanno riportato il caso di Ruslan Umaev, residente nel villaggio ceceno di Bakhiyurt, che ha lasciato il centro di detenzione per unirsi alle forze russe impegnate nella guerra in Ucraina. Umaev stava affrontando un processo per l'omicidio della cognata 22enne, Cristina Kokova, da lui strangolata nel sonno e poi bruciata a causa del suo presunto comportamento immorale. La Corte Suprema del Dagestan ha autorizzato l'invio al fronte di due ex poliziotti, Imran Rustanov e Marat Babaev, accusati di abuso d'ufficio per la morte sotto tortura del testimone Kurban Daglatov. Ha chiesto invece di essere spedito al fronte Aslan Djajev dell'Ossetia del Nord, condannato all'ergastolo e membro di una gang che ha fatto più di 50 vittime. Quindi, ora vado avanti, ma vi sto parlando di situazioni di persone, di criminali, che comunque chi brucia per una persona, una donna, perché questioni immorali, criminali che non sono prettamente abitanti della Russia. L'Ossetia del Sud, Dagestan, non sono prettamente Russia, seppur enclavi o paesi alleati. Quindi il reclutamento è molto più ampio, imbatta su un'area più ampia del suolo prettamente russo. In Karbalino Balkaria un tribunale militare di Nalkik ha condannato il soldato Vazov a 16 anni per aver stuprato la nipote minorenne. Dopo un precedente condanna anche lui era stato arruolato e mandato a combattere. Quindi era già stato condannato, è stato mandato a combattere invece la pena e ha di nuovo perpetrato il suo crimine. A Mosca si è chiuso il terzo processo per il tentato omicidio dell'imprenditore Kirill Kornev. Due imputati ceceni, Islam Nalgev e Ivan Zamuruev, sono stati condannati in contumacia, mentre il terzo, l'ex agente Arbi Alerov, sarebbe stato spedito al fronte. In Cecenia, tre sedicenni sono stati liberati dopo oltre 6 mesi di detenzione senza accuse né contatti con le famiglie. I loro padri erano stati costretti a firmare contratti con il Ministero della Difesa russo. In Ossetia del Nord, l'Unione dei Veterani dell'Operazione Militare Speciale ha chiesto l'intervento del Capo della Repubblica, Sergei Menyailov, per il caso di Zate Mamitov, inviato 2 volte al fronte nonostante fosse gravemente ferito. Era stato ferito, poi rimandato di nuovo al fronte. È stato mandato in un'unità d'assalto con una gamba infetta e privo di un occhio. Questo lo dice la sorella. Il canale ceceno di opposizione Niso ha denunciato il rapimento di almeno 6 residenti costretti ad accettare l'invio in Ucraina. Dopo la fuga di uno di loro, 2 suoi parenti sarebbero stati sequestrati come rappresaglia. In Dagestan il 18enne Said Muzanenev è stato obbligato con la violenza a firmare un contratto militare dopo aver denunciato estorsioni e missioni suicide. I suoi comandanti ne avrebbero ordinato la liquidazione. Il giorno seguente è stato dichiarato disperso. Secondo i media ucraini, il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha condotto un'operazione per accogliere 2 disertori ceceni. Uno di loro ha raccontato di essere stato torturato in una stazione di polizia e poi inviato al fronte. Fra gli ex combattenti c'è chi ottiene favori e incarichi, chi torna a delinquere e chi porta i segni della guerra. A Mosca 13 cittadini ceceni sono stati condannati per la rissa di massa del 2023 contro due tagiki, accoltellati e percossi. Alcuni imputati hanno ricevuto pene attenuate per la loro assistenza all'invasione russa nell'Ucraina. In Dagestan è stata completata la distribuzione dei voucher di beneficenza per il pellegrinaggio alla Mecca. L'80% di 2.500 biglietti è andato a veterani della guerra e alle loro famiglie, riducendo drasticamente la possibilità per i civili. Armina Takakova aspetta da 21 anni un alloggio che la legge le riconosce. Nonostante una sentenza favorevole, le autorità hanno mantenuto le promesse, privilegiando altri orfani che si sono arruolati volontariamente per combattere in Ucraina. In Ossetia del Nord, Yuri Abaev è stato nominato ministro del lavoro e dello sviluppo sociale, malgrado le accuse da parte di Kiev di avere giustiziato i prigionieri di guerra. Vladik Vak è stato sepolto. Vadir Tekov, ex detenuto arruolato dall'esercito, è morto al fronte per overdose. Secondo il canale Telegram Safa, Tekov era stato condannato a 16 anni per l'omicidio filmato dall'ex moglie, ma inviato in Ucraina dopo appena 2 anni di pena. Amakakala, un ex combattente, è stato filmato mentre si colpiva al collo con un coltello urlando che non voleva cadere prigioniero degli ucraini. È sopravvissuto ed è ricoverato. Un altro, prima di essere fermato, era diventato un massacratore seriale di cani. A Vladivostok, un 58enne reduce della guerra, ha aggredito la sua famiglia, ha ucciso moglie e figli 23enne, ferito gravemente un'altra figlia 15enne e risparmiato il figlio di 9 anni con disabilità. Dopo il delitto ha tentato il suicidio. I manifesti di guerra arrivano in tutta la Russia, ma dalla guerra arriva anche l'eco dei combattimenti, ed è un eco che ha spesso il suono di un drone. Il 7 luglio a Vladivostok, cioè l'Ossetia del Nord, è stato inaugurato in una scuola un museo dell'operazione militare speciale, con l'obiettivo dichiarato di mostrare a quale prezzo si ottengono pace e tranquillità. Una mostra fotografica intitolata Cronache del terrore del regime neonazista ucraino è stata inaugurata presso il Parlamento in guscio. Le fotografie illustrerebbero crimini ucraini e le conseguenze dei bombardamenti negli ultimi mesi. Mostre di questo tipo si sono ottenute quasi quotidianamente in diverse città e regioni. L'area è stata più volte teatro di allarmi per droni. Il 9 aprile 2024 le autorità dell'Ossetia hanno dichiarato di aver abbattuto 15 velivoli senza vittime. Ulteriori allerte si sono verificate ripetutamente fino ad agosto, con la chiusura temporanea di aeroporti in Ossetia, Cecenia, Inguscezia e Kabarda-Balkaria. Il 28 luglio un attacco ha colpito il villaggio inguscio di Akulaki, ferendo una donna e 3 bambini. Il 29 maggio un'esplosione a Stavropol ha ucciso 2 persone, tra cui Zaur Gustiev, ex combattente in Ucraina e poi vice sindaco. Delle guerre come tale si continua a non dover parlare, a non dover denunciare. Il 28 aprile una donna a Grozny è stata sequestrata e torturata dalla polizia per commenti critici sulla mobilitazione. Rilasciata solo dopo il pagamento di un riscatto, ha cercato asilo in Estonia senza successo. Il 19 giugno un caso penale è stato aperto contro l'attivista osseta Visario Nazev per post antibellici. Ritratti dei partecipanti all'invasione russa dell'Ucraina, installati su Viale Pietro I e Maciancia, sono stati deturpati da sconosciuti. In Dagestan il padre di ragazzini che hanno danneggiato striscioni con ritratti dei partecipanti alla guerra è stato costretto a presentare un video di scuse. Potrebbe anche rispondere di accuse amministrative o penali. Ora, tutto ciò. Tutte queste varie notizie, a che ci servono? Che cosa ci dicono? Che cosa ci dicono? Ci dicono innanzitutto che chiaramente non è che la guerra, anche fisicamente, sia, lasciamo stare le truppe nordcoreane e l'inutilità della loro presenza, ma al di là di quello, che le guerre in quanto tali, quando scoppiano, chiaramente investono tutti i paesi limitrofi dal punto di vista politico. Abbiamo visto, appunto, prima ne abbiamo parlato della Polonia, della Moldavia, e potremmo parlare di tanti altri paesi limitrofi alla guerra, ma anche le persone in sé che, appunto, in paesi, per esempio, come l'Ossetia, come il Dagestan, la Transnistria, paesi chiaramente che sono sotto l'influenza e la protezione russa, poi anche i loro cittadini finiscono all'interno delle beghe, del disagio, di quello che le guerre porta dietro con sé. Quindi, da una parte, chiaramente il tenere sotto controllo la popolazione, quindi anche con arresti ingiustificati, perché comunque stiamo parlando di paesi non democratici. Non che il nostro sia particolarmente democratico, lo dico sempre, però appunto neanche quelli. Ma dall'altra, perché investe la gente, investe le persone, vengono reclutati i carcerati? Cioè, logicamente lo capiamo perché, rispetto a un civile, questo qui chiaramente andrà con più volentieri, perché se dall'altra dovrebbe stare in carcere, se non, non so dove ci sia, se ci sia la pena di morte in Russia, non lo so, lo guarderò. Che dall'altra parte, allora tanto vale andare a combattere, anche perché poi si hanno dei benefici in qualche modo. In generale tutte le guerre portano dei benefici, almeno sulla carta, almeno finché la guerra è in atto, dei cosiddetti veterani. Poi si vede dopo le guerre che cosa ne fanno nei veterani. Guardiamo anche solo gli USA, che hanno fatto della guerra un po' la loro storia, e poi hanno buttato nel cesso tutti quelli che hanno mandato a combattere, intere generazioni. Si sa degli homeless, dei veterani, anche perché andare a fare la guerra, al di là che tu sia criminale o meno, è una roba che ti spappola il cervello. Non puoi uscire normale dopo essere andato a uccidere altre persone. Quindi quello che si evince da questo articolo, e che ci racconta tutte queste varie situazioni, è questo: è l'inutilità della guerra, è il danno che la guerra fa e che lascia dietro di sé, durante, mentre, non solo nei posti dove viene combattuta, ma anche nei posti limitrofi. O almeno questa è la mia analisi e la mia visione. Se volete controbattere o parlare o approfondire, scriveteci pure a posta@insiberia.net. Questo anche per dirvi che articoli come questo, no, che sono un po' strani, sono un po' nel mezzo, non si capisce che cosa vogliano dire. Ecco, quando andiamo a leggere articoli, qualunque sia la fonte, sempre verificare la fonte se possibile, ma sempre guardarli con fare critico, perché non si sa, o se si sa, chi lo scrive ha chiaramente una sua individualità e noi abbiamo la nostra. Ma quindi l'invito mio personale è, quando leggete un articolo o qualche notizia, sempre stare sugli attenti, non prendere tutto per oro colato, o comunque ragionare su quello che si sta leggendo e fare delle analisi, perché ci permettono di comprendere meglio il mondo. In tutto ciò leggete, mi raccomando, leggete, perché è importante. Allora ci spostiamo, parliamo di altro, direi parliamo di altro. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo un'oretta scarsa. Allora volevo parlarvi di crisi abitativa, ma in generale di lotta alla privatizzazione nei Balcani, perché c'è un movimento interessante da menzionare. Partiamo da questo, che è è lo SBOR, acronimo per Resistenza e Lavoro Uniti nei Balcani. È un collettivo transnazionale e una piattaforma per articolare una posizione condivisa contro la transizione verde la transizione verde capitalista e contro tutte le forme di estrattivismo violento. Cioè, la transizione verde capitalista è quella finta quel mezza via che viene portata avanti appunto dalle elite mondiali, non tutte, ma insomma la maggior parte, per cui dice sì, va bene, bisogna fare sta transizione green, perché per petrolio a un certo punto finisce per davvero, e però come la si fa? La si fa comunque male, la si fa privatizzando, la si fa espropriando, la si fa distruggendo il terreno. Dice, a me viva l'elettrico, però intanto fai le scavi e distruggi il territorio per prendere il litio, per fare le batterie. Insomma, no, è una questione, chiaramente non basta mettere la parola green, mettere la transizione verde per dire ok, stiamo facendo un buon lavoro. Nei primi anni del dopoguerra la Bosnia Erzegovina si è trovata ad un bivio tra promesse di ricostruzione e realtà della transizione, in un momento storico in cui lo Stato e la società avevano appena iniziato ad uscire dal caos, dalla miseria, dalla distruzione della guerra, la speranza di una libertà e un benessere a lungo desiderati era svanita di fronte al saccheggio di beni pubblici. Nel mezzo di una transizione ingiusta, le istituzioni e le aziende pubbliche da un giorno all'altro erano caduta preda di pochi. Invece di impegnarsi per ricostruire il paese, per garantire il ritorno dei profughi, degli sfollati e gettare le basi in un nuovo stato indipendente, il neonato apparato politico aveva ceduto all'arroganza dei profittatori di guerra, lasciando che i diritti umani venissero calpestati, le istituzioni distrutte e le pratiche corruttive legittimate. La società si era trovata divisa tra chi aveva tutto e chi sopravviveva a malapena. Poi a un certo punto, nonostante la disperazione che si era ormai insinuata negli animi, nelle crepe dell'abisso emerso, emersero i primi movimenti di resistenza civile. Alla spinta iniziale venuta dalle iniziative per il ritorno dei profughi, ben presto si aggiunse la consapevolezza che i diritti fondamentali dei cittadini liberi erano sotto attacco. Nel vertice dell'amaro passaggio da un'epoca socialista a un capitalismo selvaggio, con l'apertura del mercato ad essere minacciate, sono state anche le risorse naturali e il diritto dei cittadini a disporre della propria vita e della propria terra. Un'intera regione ricca di minerali necessari per la transizione verde è diventata bersaglio di brutali conquiste territoriali in una guerra globale per le risorse. Sconvolte da repentini cambiamenti socio-economici che proponevano la ripresa di un'economia in declino, le comunità locali si sono trovate in bilico tra il miraggio del progresso economico e la necessità di difendere la dignità umana del lavoro, e del lavoro calpestata. Sul fronte della resistenza, a lungo caratterizzata da piccoli movimenti civici contro le corporazioni minerarie e la corruzione, oggi stanno finalmente emergendo segnali di una mobilitazione anticapitalista transnazionale lanciata da cittadini liberi, riuniti intorno alla piattaforma ZBOR, Resistenza e Lavoro Uniti nei Balcani. ZBOR riunisce gruppi informali, attivisti, intellettuali, sindacalisti, lavoratrici e cittadini. Lavoratori e cittadini, lavoratori e lavoratrici e cittadini e cittadine, che ciascuno delle proprie comunità, ciascuno nelle proprie comunità lottano contro l'estrattivismo e la transizione ingiusta. ZBOR è un termine serbo croato per indicare assemblea popolare, un plenum. Si richiama ai meccanismi di democrazia diretta e autogestione che vantano una lunga transizione in questi territori, sin dai tempi della resistenza antifascista e della lotta di liberazione popolare. Nei territori liberati le assemblee erano luoghi in cui venivano prese decisioni, per poi diventare nella Jugoslavia socialista il principale meccanismo decisionale. Questo lo spiega Dedimovic, attivista bosnio-erzegovese, tra le ideatrici di ZBOR. La piattaforma costruisce il suo approccio alla transizione ecologica ispirandosi alla natura eterogenea e all'autonomia dei plenum, tutti liberi ed uguali. Sono questi i luoghi dove, secondo i membri di ZBOR, andrebbero prese le decisioni sul futuro dei Balcani. Ma io sono d'accordo, ma sono decisioni del mondo. No, è complicato, però siamo d'accordo. ZBOR è nato nel 2023 a Berlino durante un workshop promosso dalla rivista berlinese Gazette, dove si sono incontrati attivisti provenienti da Serbia, Bosnia e Bosnia. Consapevoli che ad accomunarli era la battaglia contro il neocolonialismo corporativo dei Balcani occidentali, nel 2024 gli attivisti dei due paesi hanno organizzato un ciclo di incontri nell'area di Omolje, nella Serbia orientale, nella magnifica cornice naturale di quest'area, brutalmente devastata negli ultimi anni e disseminata di migliaia di pozzi minerari esplorativi. La popolazione locale e gli attivisti hanno unito le forze di opporsi all'attività mineraria irresponsabile della società canadese Dundee Precious Metals. Recentemente questa azienda ha preso il controllo della miniera di materie prime critiche a Vares in Bosnia-Herzegovina grazie a un accordo per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Secondo informazioni non ufficiali di cui dispone ZBOR, il progetto esplorativo dell'azienda canadese nell'area di Omolje sarà venduto alla società cinese Zijin. È colpa di quest'ultima se la vicina Bor è stata inserita nella lista ONU delle 50 città più inquinate al mondo. L'anno scorso, durante il primo incontro di ZBOR, è stata pubblicata la dichiarazione di Omolje con un messaggio chiaro: nessuno pagherà né la transizione verde né il capitalismo verde con la propria acqua, il proprio suolo, la propria aria, la propria salute e la propria comunità. Tutti gli abitanti delle aree a rischio in Bosnia e Serbia sono stati invitati a prendere parte all'evento per unire le forze e porre resistenze alla conquista neocoloniale di montagne, foreste, fiumi e città. Inciso, sarete tutti d'accordo, ma la questione non è tanto l'inquinamento e la transizione verde, è il capitalismo. Il problema è il capitalismo, il problema è il consumo, è la cultura dell'estremo consumo e quindi il dover produrre eccessivamente e quindi al dover usare e sfinire le risorse e quindi andare a espropriare posti che di per sé starebbero bene. Insomma, no, inciso, siamo tutti d'accordo, però ricordiamocelo. Ne è seguita una visita alle città tedesche organizzata dagli attivisti di Sbor per spiegare al pubblico locale, gli attivisti, ai sindacalisti e ai professori universitari i reali effetti della transizione verde nei paesi balcani occidentali. Perché, altro inciso, ne ho parlato spesso all'Unione dei Balcani, la transizione verde dell'Occidente viene fatta poi su dove? Cioè vai a... non è che riapri le tue miniere, anche se ce l'hai, ma vai chiaramente a comprare e aprire... paesi capitalisti. Vai a chiaramente a farle in altri paesi, a devastare altri paesi, se puoi, perché devastare il tuo. Abbiamo invitato alla solidarietà tra i lavoratori, sottolineando che i Balcani non sono un Eldorado per salvare l'industria automobilistica e metallurgia tedesca, appunto. Per salvare il pianeta abbiamo bisogno di un modello economico diverso, appunto. Serve una lotta anticapitalista, non una lotta per la modernizzazione ecologica. Nuove economie e la neutralità climatica, appunto, siamo d'accordo con Nedimovic, rilevando l'essenza stessa di Sbor, una piattaforma per ripensare la transizione energetica e da una prospettiva anticapitalista. Il problema è il capitalismo, che ha imposto i suoi vecchi schemi alla transizione verde. Nulla è cambiato, sono state semplicemente individuate e in un certo senso legittimate nuove nicchie di investimento. Quello che era considerata la missione per civilizzare i selvaggi durante le prime conquiste coloniali, la decolonizzazione all'inizio del secolo scorso e la spinta allo sviluppo delle aree sottosviluppate del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, oggi è la missione per salvare il pianeta. Ora questo discorso viene riproposto in una veste nuova, anche nel luogo in cui è nato, tant'è che ormai si parla di priorità geopolitiche e di sicurezza dell'Europa. Vero? Vero. Nelle città minerarie di Brezza, in Bosnia, l'11 e il 12 settembre si terrà il secondo incontro dei membri di Sbor. Un posto, quindi siete in tempo? Siete in tempo? No, non siete in tempo. O mi ascoltate da lì o non siete in tempo. Oggi i minatori della Bosnia sono in ginocchio e le miniere di carbone in tutto il paese sono ormai un reperto storico, un ricordo dei bei vecchi tempi. Ah, quando si andava a minare il carbone, bei tempi. Nuove miniere vengono scavate e il paese pian piano sta diventando un paese di materie prime per il futuro verde dell'Europa. In linea di principio, Sbor si oppone allo sfruttamento degli esseri umani e dell'ambiente ed è sulla sottomissione della natura e dei lavoratori che si basa l'estrattivismo e il capitalismo. Certo, questa è la base di tutto. Quindi non c'è alcuna contraddizione tra le lotte degli attivisti ambientalisti e quelle dei lavoratori delle miniere, dei lavoratori in generale direi tra l'altro. Anzi, tutti gli elementi di queste lotte sono interconnessi, sottolinea l'attivista ambientale Ibrakovic. Vogliamo far capire alle persone che la lotta è una sola e che il nemico è uno solo. Ci piacerebbe che il primo Sbor in Bosnia risvegliasse il coraggio e la voce delle persone, facendo loro comprendere che non sono solo nelle loro paure e le preoccupazioni e che esiste un modo per lottare per un futuro migliore. Però bisogna farlo insieme. Purtroppo siamo in società, il capitalismo ci ha creato anche una società iperatomizzata, ognuno per conto suo tendenzialmente, per il proprio consumo, anche in competizione con l'altro. Quindi è difficile fare questi movimenti, l'unico modo è farlo dal basso. Traiamo ispirazioni da eventi come la rivolta di Bor del 1935, precisa Nedimovic, quando i contadini e i minatori si erano ribellati insieme. I minatori a causa delle condizioni di lavoro in miniera. Bei vecchi tempi, I contadini a causa dell'inquinamento. Ah, se i vecchi tempi era quando ci si ribellava, allora sì. Solo unendo le forze, gli operai e i contadini erano riusciti a innescare cambiamenti radicali, capendo che stavano lottando per la propria esistenza, non contro chi si guadagnava da vivere onestamente con il proprio lavoro, bensì contro un nemico comune, contro chi sfruttava sia la classe operaia che i contadini. L'attivista traccia poi parallelismi tra la rivolta di Bor e gli attuali movimenti contro lo sfruttamento sfrenato delle risorse minerarie in Bosnia, ma anche in Serbia. Abbiamo parlato appunto dell'azienda Rio Tinto e della miniera di litio, lo accennavo prima, ne abbiamo parlato nell'urlo dei Balcani. Quello che oggi vogliono sfruttare i minerali sul monte Orzeg sono gli stessi che domani ridurranno i minatori ad una condizione di precarietà, anche chiudendo la miniera di Zenica, gli stessi che consegneranno l'intero settore energetico in mani private. Quindi i temi affrontati da Sbor riguardano tutti noi, tutti paghiamo l'elettricità. Nel momento in cui l'elettricità passerà in mani private, in un contesto in cui non si parla nemmeno della tutela di consumatori domestici, perderemo il controllo della produzione di energia e la società sarà lasciata alla mercé del mercato globale. Oh yes. Ricordando che i lavoratori hanno sempre e ovunque lottato per l'emancipazione della giustizia, Ibrahimovic spiega che le iniziative di Zbor sono un'occasione per far rivivere quella memoria. È importante sottolineare che a Brezza ci saranno anche i minatori provenienti dalla Gran Bretagna, che hanno subito terribili ingiustizie 40 anni fa. La privatizzazione ingiusta delle miniere britanniche oggi si riflette nei prezzi insostenibili dell'elettricità e del divario tra ricchi e poveri. La storia si ripete, la sostanza è la stessa, sempre e ovunque parliamo di un problema globale. Durante il secondo incontro del gruppo sempre più numeroso di attivisti e sostenitori dell'idea di una resistenza comune nei Balcani, che si terrà a settembre a Brezza, è prevista la presenza di cittadini consapevoli della Bosnia-Herzegovina e della Serbia, ma anche di attivisti per il clima provenienti dal nord Europa, sindacalisti e membri delle comunità vulnerabili in Portogallo, Gran Bretagna, Italia, Germania, Montenegro e Slovenia. Ad accomunarli è la lotta contro lo sfruttamento del territorio, della natura e delle persone nella scorsa globale al profitto. L'idea di Zbor alle critiche alla transizione verde, al di là delle considerazioni generali condivise da chi difende i beni collettivi da privatizzazioni senza scrupoli e corse al profitto e a contrarre i singoli paesi dei Balcani, è la debolezza di fronte all'invasione aggressiva dei capitali legati ai mercati emersi dagli interstizi dell'agenda della transizione verde. L'obiettivo degli attivisti di Zbor è quello di rafforzare la mobilitazione contro le autorità nazionali incompetenti, ma anche di scardinare quella narrazione diffusa dall'Unione Europea che non hanno nulla a che vedere con i nobili obiettivi della politica verde. I diritti umani sono solo uno strumento retorico con cui l'Unione Europea legittima tutto quello che è stato fatto nell'ultimo mezzo secolo, e stiamo parlando di giustizia, libertà, uguaglianza, alcune idee che sono state bandite dalle discussioni proprio a causa delle loro radici ideologiche. Ci opponiamo a questo tipo di transizione verde. Si può sostenere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente naturale senza però ignorare il fatto che in tutto il mondo le persone stanno lottando per la propria esistenza e per il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti i progetti dannosi per le loro comunità. In Bosnia, ad esempio, vengono aperte nuove miniere private, chiudendo quelle vecchie, mettendo così a rischio l'intero settore energetico, ancora prevalentemente basato sul carbone. Il concetto di transizione è molto problematico, suggerisce una sorta di percorso lineare e rigorosamente controllato sempre nella stessa direzione. Noi invece aspiriamo a una trasformazione radicale del sistema. Senza tale trasformazione non sarà possibile tutelare né i cittadini né l'ambiente. Nedimovic dice sempre questa roba qua. Assistiamo a deindustrializzazione desolante, dove l'economia è stata svuotata di qualsiasi significato. Le persone vengono ridotte in schiavitù e divise tra loro. Non c'è alcun presupposto per un vero sviluppo. D'accordissimo. Zbor può essere visto come un primo passo per rafforzare la consapevolezza dell'importanza di una lotta comune in difesa dei beni pubblici. In decine di piccole comunità in Bosnia e Serbia, i cittadini per lo più abbandonati a loro stessi difendono il loro ambiente, le loro proprietà, persino le loro vite, dall'estrattivismo aggressivo. Per quanto coraggiose e massicce, queste lotte sono ancora abbastanza isolate. Zbor è un'occasione per comprendere l'importanza di una battaglia trasversale capace di far nascere movimenti forti, ed è anche un'occasione per riflettere su come ciascuno di noi possa beneficiare di questa unione. Vogliamo far capire a tutti i cittadini che la transizione, così come è concepita oggi, avrà un impatto notevole sui loro bilanci familiari. Chiunque viva nel proprio lavoro sperimenterà questa transizione sulle proprie pelle, compresi quelli che non si sono mai nemmeno avvicinati alla una miniera. Per gli organizzatori dell'incontro a Brezza, il più grande successo sarebbe riuscire a risvegliare i cittadini dal torpore, spiegandoli a riflettere sui propri passi, spingendoli a riflettere sui propri passi da fare per difendere le loro risorse più importanti. Pertanto, appunto, andatevi a guardare quello che sarà dopo, perché a questo punto non ce la fate andare se non lo conoscevate già. Però, insomma, interessante. Continueremo a seguire questa piattaforma, perché è veramente interessante. Ci fermiamo un attimino, siamo in conclusione, ma insomma restate qui con noi sul Ponte Radio Wombat. È buona per rispetto, non che buona per lag. Tu popora me gang, e dhe ti sun un break. Në gjyko të po luftë me shtet, halu i kam avokatin e njejt. Me një audio dhe dojtë unë a njek, jenë a rrugve dhe ti sun a prejk. Sun un break, sun un break, sun un break, si president. Jenë a rrugve një tjetër klient, halu fullin për nuk din të asen. Se e partë po ti marrëshin mend, se e fumën po ti marrë ke shukt. Na halu i kena kom tuk, shqiptar të bolek na borbut. Policia policia po' mi inganna da musica. Cure scegli di farci da patica. Non che dici la nota, ci la udita. Una dice capo, va buono che dita. Non con buon music, per me buon leghe. Non con buon music, per me che non svedemo. Se me post music, se me pop take. Io non è por music, c'ho da ogni donna da fa cazzo. C'è di intetta, niente in estrada. Ma pa' condam, che nasce un tiron. Che nasce un London, Italy, il ghost, buona icon. È buona per respect, non che buona per leg. Tu po' pora me gang, e da ti sono un break. Në gjykot të po luftë me shtetë. Hale kam avokatin e njëjtë. Me një audio dhe dojtë në njëkë. Jena rrugë dhe ti suna prejkë. Suna prejkë. Maybach, between I'm a Maybach. Big bitch, I'm back. Për mi market. Maybach, between I'm a Maybach. Koha hit straight. Po une ma shpejt. Sono un orso, non shit, sono un breaking, dickin. Me ta boni dis tani Ellen, ripping. Kom lindi mas, un kam ojt mu gjipi. Ta shalo ma i mafu, pore kom gjipin. Bele kom hikrin, i kom dobisha me vitik. Tu sune blin respektin, po jena te blin ashtitin. Daja polis merlikin. E bona për respekt, nuk e bona për lek. Tu bu pore me gang, edhe ti sun un break. Në gjykot të bu luftë me shtet. Halu i kam avokatin e njejt. Me një audio dhe dojtu na njik. Jena rrugve dhe ti suna prejk. Sun un prejk. Ed eccoci qua, questo è il Ponte Radio, oggi in quota Radio Wombat parliamo di Balcani e l'argomento ora era appunto il partendo da questa piattaforma Zbor, una piattaforma transnazionale nei Balcani che cerca di unire le lotte sia dei lavoratori che quelle ambientali contro la nuova frontiera della colonizzazione dell'estrattivismo che si cela sotto tra le pieghe della transizione green, dove fondamentalmente i paesi capitalisti dominanti vanno a sfruttare le risorse dei paesi invece che hanno bisogno di soldi e che quindi chiudono un occhio su queste questioni, anche se poi non porterà un vero sviluppo. In particolar modo i Balcani sono una zona particolarmente vessata perché hanno molte risorse e sono facilmente ricattabili e hanno dei governi che insomma tutto sommato anche piuttosto corrotti e bla bla bla. Allora però andiamo nello specifico, al di là della meraviglia della piattaforma e di questa lotta che noi sosterremo assolutamente, di cosa stiamo parlando? Andiamo ancora più nello specifico, perché sappiamo, appunto vi dicevo, Rio Tinto in Serbia, in Bosnia. Di cosa stiamo ragionando in Bosnia? Allora, grazie a un enorme affare minerario, la Bosnia Erzegovina ha attratto il più importante investimento estero della sua storia recente. Lo Stato continua a promuovere l'estrattivismo verde, pur non essendo capace di proteggere le proprie risorse naturali e la popolazione dagli effetti dannosi dei progetti minerari. A solo un anno dall'apertura della miniera di Rupice e dai primi ricavi derivati dalla lavorazione e dall'esportazione di minerali estratti, la compagnia britannica Adriatic Metals ha deciso di vendere l'intero capitale azionario del complesso minerario di Vares alla società canadese Dundee Precious Metals, no, la accennavamo prima, per 1,25 miliardi di dollari. Oltre alla valutazione dei guadagni sul mercato dei metalli, la decisione dei vertici di Adriatic Metals con ogni probabilità è legata ad enormi perdite subite dopo la distruzione della rete ferroviaria di Jablanica. Le alluvioni dello scorso anno hanno infatti provocato un'interruzione delle principali vie di comunicazione nell'area, in precedenza utilizzate per l'esportazione di minerali estratti. Ad accomunare le due aziende coinvolte in questa transazione storica sono anche altri progetti controversi avviati nei Balcani occidentali. L'azienda canadese DPM è nota per i suoi progetti d'oro in Serbia, ma anche per le forti resistenze della popolazione locale che denuncia il prosciugamento delle sorgenti e la distruzione dell'area boschiva di Omolie. No, ne abbiamo parlato prima dell'est del paese. In questa zona la DPM da anni ormai sta esplorando i grandi giacimenti d'oro nella località di Kocha Rakita. Come nel caso di Varesh, anche in Serbia gli ambientalisti si sono impegnati per salvare la straordinaria biodiversità e le fonti di acqua potabile in un'area dove, come quella di Eomolje, dove le risorse naturali dovrebbero essere protette dalla legge per evitare le conseguenze dannose dell'attività esplorativa ed estrattiva. Nel frattempo entrambe le compagnie minerarie vanno avanti con i loro progetti nonostante le molteplici critiche e denunce. Se da un lato gli analisti evidenziano le potenziali criticità normative e geopolitiche nell'implementazione del nuovo progetto delle Dundee Precious Metals in Bosnia, dall'altra l'azienda vede questo affare come un passo strategico per un'ulteriore crescita. Per il DPM il progetto Varesh è un'opportunità straordinaria per aumentare le produzioni di oro, attività per cui la compagnia canadese è conosciuta over the world. Uno studio pubblicato nell'aprile di quest'anno, commissionato dal DPM in conformità alle norme canadesi sulla pubblicazione dei dati relativi ai progetti minerari, prevede che una miniera di Varesh rimanga attiva per 15 anni, producendo circa 168.000 once equivalenti di oro all'anno. È previsto anche un ampliamento di attività esplorativa, attualmente circoscritta da un'area di 4.400 ettari. Sì, dall'inizio il progetto Varesh è stato accompagnato da polemiche. In un primo momento la popolazione aveva accolto con entusiasmo l'annuncio di una rivitalizzazione definitiva della vecchia miniera, che per decenni insieme all'acciaieria ha fornito linfa vitale a questo piccolo comune di Bosnia centrale. Le autorità hanno dichiarato lo sfruttamento di argento, piombo, zinco e oro a Varesh, un progetto di interesse nazionale, presentando Adriatic Metals come un'azienda capace di salvare uno dei comuni più poveri della Bosnia. D'altra parte, gli attivisti locali da anni evidenziano gli effetti negativi del progetto rilevati già nella prima fase esplorativa sulla qualità dell'acqua potabile a Varesh e nel vicino comune di Kakanj. Gli ambientalisti denunciano anche la distruzione di una foresta durante i preparativi per l'attività estrattiva della miniera di Repubblice. Quindi sì, ti dà lavoro, arrivano, se apri la miniera ti do lavoro, così campi, però i soldi che ti do devi anche per andare a comprare l'acqua, perché l'acqua non ce l'hai più. Dall'altra parte gli attivisti l'ONG Banwatch, che monitora gli investimenti nel settore energetico e i loro effetti sulle comunità locali, in un commento pubblicato nel 2023 chiede perché le ambasciate di Gran Bretagna, Norvegia e Stati Uniti a Sarajevo, i cui rappresentanti si sono recati a Varesh per ribadire il loro sostegno al progetto minerario, facciano orecchie da mercanti, e perché la Banca Europea per la Costruzione e lo Sviluppo continui a tacere di fronte alle conseguenze disastrose che il progetto comporta per l'ambiente e la comunità locale. È chiaro quindi che il nuovo proprietario della miniera di Varesh, oltre a un'attività redditizia, ha ereditato anche una moltitudine di problemi riguardanti le autorizzazioni, le procedure di cambio di destinazione ed uso dei terreni, le denunce e le critiche avanzate dagli attivisti. Nonostante la questione dell'utilizzo della proprietà dello Stato non sia mai stata risolta, la leadership della Bosnia sembra pronta a scendere a compromessi e sostenere in maniera incondizionata investimenti esteri, una dinamica che in ultima analisi rischia di danneggiare un'azienda come Dundee Precious Metal, che si è pubblicamente impegnata a rispettare i principi ambientali, sociali e di governance, però come sappiamo sta vendendo alla Cina. Alla fine del 2024, a seguito di una segnalazione presentata dall'azienda idrica di Kakanj, che ha denunciato un forte aumento della concentrazione di cadmio in un fiume che fornisce acqua potabile alla popolazione locale, è stata annullata l'autorizzazione rilasciata ad Adriatic Metals per lo sfruttamento minerario. Il permesso è stato revocato in modo da poter sciogliere alcune perplessità sull'utilizzo dei terreni non inclusi nell'area estrattiva della miniera di Rupice. Tuttavia, una decisione di giorni dopo l'autorizzazione è stata rinnovata grazie al tempestivo intervento del Ministero dell'Energia, delle Miniere e dell'Industria della Federazione. I responsabili dei danni causati alle risorse idriche non sono mai stati identificati. In precedenza, la Corte Costituzionale della Bosnia aveva sospeso la decisione con cui il governo della federazione, violando la legge sul divieto temporaneo di uso dei beni statali, aveva consentito alla compagnia britannica di utilizzare temporaneamente, o meglio, di disboscare 7,24 ettari di terreno forestale di proprietà statale. Adriatic Metals non solo non ha rispettato la decisione della Corte Costituzionale, ma, come denuncia la direzione per le foreste del cantone di Zenica Doboš, ha abbattuto illegalmente un'altra foresta demaniale estesa su una superficie di 3.000 metri quadrati nell'area di Varesh. Nermin Irkic, primo ministro della federazione, ha reagito definendo gli alberi distrutti una foresta brulla inutile che avrebbe messo a repentaglio gli investimenti. Un investimento molto allettante, capito? Nel documento presentato da Kobo si afferma che nell'area data in concessione alla Adriatic Metals si trova una foresta vergine di ricca di biodiversità che rappresenta un habitat unico in numerose alghe, pesci e crostacei e un'importante rotta migratoria per gli uccelli. Un ecosistema che secondo l'attivista rischia di essere gravemente danneggiato da un progetto minerario come quello di Varesh, che comporta la deforestazione e l'inquinamento dell'acqua dell'area e del suolo. Nella risposta fornita dal governo della federazione, tutte le accuse relative alla violazione della disposizione della convenzione di Berna sono state respinte come errate e infondate. La Bosnia ha scelto di ignorare la convenzione di Berna e il progetto Varesh è proseguito senza intoppi. Nel frattempo la Adriatic Metals ha intentato una causa per diffamazione contro Kobo, ben presto però decidendo di ritirarla. I boschi lungo le sponde dei fiumi Trstionica e Bukovica, in particolare una foresta vergine che si estende sui pendii del rilievo interessato dalle attività minerarie, costituiscono il fulcro del progetto del parco naturale Trstionica-Boriva. Anche se il consiglio comunale di Kakanj già nell'autunno del 2023 aveva deciso all'unanimità di istruire un'area protetta dove ancora dovevano ancora essere completate diverse procedure riguardanti l'analisi, la stesura delle documentazioni e la definizione dei migliori modelli di gestione. Gli attivisti che si battono per proteggere questo particolare ecosistema sperano che la reazione di un parco naturale possa fermare tale progetto, cioè il progetto minerario di Varesh, a sfavore agli ambientalisti. Oltre al mega affari conclusi recente, gioca però il fatto che in questa zona è stata avviata la ricerca per esplorare altri giacimenti minerari potenzialmente redditizi, compresi alcuni depositi di cromo. Per cui a un certo punto fotte sega dei villaggi, cioè se è di interesse nazionale che ci si guadagna tanto, vi sposterete. Un altro aspetto problematico è che Varesh viene presentato come un'area mineraria attrattiva, capace di soddisfare gli appetiti neocoloniali. Così crea un clima che permette agli investitori stranieri di portare avanti indisturbati i propri progetti, ignorando le critiche fondate e i danni ambientali ben evidenti che questa attività lascia in eredità alle generazioni future. La miniera di metalli preziosi più promettente del sud-est Europa, quella di Varesh, anziché diventare un pilastro della sovranità economica della Bosnia, è stata trasformata in un laboratorio che genera guadagni per un'azienda straniera, con canoni demaniali minime e un caos legale totale. Poi chiaramente quando si parla di denaro, le critiche non sono solo quelle giuste, ambientali e di sfruttamento non solo del suolo ma delle persone, ma anche poi entra in gioco anche una questione seminazionalista e dice vabbè, allora a questo punto facciamolo noi così i guadagni sono nostri. Vabbè. L'accordo è stato siglato nonostante le miniere non sia prevista dal piano urbanistico federale né tantomeno da quello cantonale, rendendo così il progetto estrattivo privo di qualsiasi fondamento giuridico. Le istituzioni avrebbero dovuto reagire, però l'intero sistema giudiziario è stato ridotto a un osservatore passivo oppure ad un complice attivo. Più complicativo probabilmente. Il regolamento europeo sulle materie prime critiche incoraggia ulteriormente l'attività esplorativa legata ai minerali strategici e prevede diversi meccanismi per accelerare la procedura per ottenere i permessi necessari. Gli ambientalisti temono che, considerando l'atteggiamento delle elite politiche locali, l'intera area dei Balcani occidentali possa diventare una cava di miniere di materie prime per il raggiungimento degli obiettivi della transizione verde. Questo è molto preoccupante anche perché in Bosnia e Erzegovina le procedure ho fatto casino. Le procedure, anche perché in Bosnia e Erzegovina le procedure sono già veloci, si tende ad ignorare l'opinione pubblica e l'atteggiamento delle comunità locali. Tutto avviene in modo segreto, secondo uno schema ormai consolidato. Ci vogliono 10-15, talvolta 20 anni per aprire una miniera nel paese, nei paesi dell'Unione Europea, proprio per via delle procedure per ottenere i permessi e delle necessità di includere l'opinione pubblica. Nel nostro paese invece questo processo è molto più breve. Ibrahimovic, che ci ha detto queste cose qua ora, cita che è un attivista per il progetto Pulse. Cita il caso della miniera di Varesh, aperta a soli 7 anni dall'avvio delle ricerche, ma anche l'esempio di Majevica, dove l'opinione pubblica a lungo è rimasta all'oscuro delle attività esplorative nell'area di Lopare. L'attività evidenzia anche alcune decisioni sbagliate prese dalle istituzioni della Bosnia dopo le guerre, creando così le condizioni per un assetto politico favorevole a eminenze grigie ed investitori controversi. ci dobbiamo preoccupare di un accordo commerciale sottoscritto dalla Bosnia già nel 95 e successivamente ratificato, il cosiddetto Energy Charter Treaty, che protegge certi investimenti e investitori. Oggi diversi paesi europei si stanno ritirando da questo trattato dannoso, spiega Ikramovic. Dopo la guerra, la Bosnia ha adottato anche una legge sugli investimenti esteri, spianando così la strada a privatizzazioni deleterie e un'ulteriore svendita delle nostre risorse. Anche l'attivista Bodic è dello stesso parere e ci dice: negli ultimi 30 anni i nostri beni sociali e naturali sono stati oggetto di continui saccheggi. Prima hanno distrutto le nostre aziende, poi tutto il resto. In questo contesto la normativa in materia di connessioni di concessioni svolge un ruolo molto importante, essendo concepito in modo da agevolare un processo decisionale lontano dagli occhi e senza alcun coinvolgimento dell'opinione pubblica. L'architetto Boris Britavar, il modo in cui è stato concepito la legislazione nazionale in materia di concessioni, per lui dice, che si traduce in un atteggiamento servile nei confronti di investitori stranieri, la dice lunga sull'effettiva sovranità della Bosnia, come ben dimostrato anche il caso di Varesh. La Bosnia non guadagnerà un soldo bucato con questo accordo stratosferico. Volendo fare un confronto, secondo l'organizzazione Eco Archia nella Repubblica Democratica del Congo, dilaniata da guerre, la legge prevede che lo Stato detenga una quota del 20% di ogni progetto minerario. Se Vare si trovasse in Congo, questa compravendita frutterebbe allo Stato oltre 400 milioni di marchi, poco più di 200 milioni di euro. La Bosnia invece riscuote canoni demaniali miseri, pari a 3,9 marchi per tonnellata di minerale, una delle imposte sugli utili più basse d'Europa. Nel 2024 il concessionario ha registrato un utile di 46 milioni di marchi convertibili, mentre lo Stato ha incassato 77 volte meno delle concessioni, ovvero 569 mila marchi convertibili, circa 230 mila euro, cioè invece di milioni fanno i mila. Anziché di uno sviluppo, come lo presentano le istituzioni media allineati, si tratta di un colonialismo economico legittimato dal consenso interno. Il paese è stato derubato per l'ennesima volta, con tanto di sorrisi dei politici, titoli sugli investimenti esteri e silenzio delle istituzioni. Quando qualcuno nel cantone di Zenica Dobojva vi dice che la Bosnia è uno stato sovrano, mostrateli la maniera di Varesh. Anche perché questi grandi investimenti esteri che noi dobbiamo attrarre, perché altrimenti butta male l'economia, poi dopo molto spesso, chiaramente non gli investimenti non sono solo di questo tipo, però insomma, poi sono investimenti esteri che non gliene frega niente di quello dei danni che lasciano sul territorio, e poi a un certo punto se gli piglia male se ne vanno, anche se in realtà ma è solo per risparmiare 2 euro, cioè insomma, per dire, no, pensiamo alla GKN, no, che questi grandi investimenti esteri che tanto vogliamo, poi alla fine in realtà sono più dannosi che altro, perché il lavoro non creano un vero lavoro. Non compensano veramente i danni che fanno sull'ambiente e sulla società, per cui vaffanculo. Comunque, vabbè. Ok, abbiamo ancora un gocciolino di tempo e quindi passiamo all'ultima notizia, sempre legata ai Balcani, sempre legata un po' a tutto questo contesto, perché poi parallelamente in città come Belgrado, Tirana, Pristina, il costo degli alloggi è ormai troppo alto rispetto al livello delle retribuzioni. Il mercato immobiliare è sempre meno accessibile, soprattutto per i giovani, ma le istituzioni stentano a fare la loro parte. Ossia, fondamentalmente, i Balcani non solo stanno subendo questa complice dei loro governi, questo estrattivismo potente, ma appunto si comincia ad avere anche quegli effetti che noi conosciamo bene delle grandi città che si spopolano perché respingono i cittadini, perché non sono più sostenibili. Questo non porta poi a un ritorno magari alle campagne, a una società agricola in una comunità comunque pericittadina bella, ma tendenzialmente poi crea povertà e ghetti nelle periferie che non fanno bene a nessuno. Da 7 anni Dejana Stosic vive in affitto a Belgrado. Questo 26enne, originario di una cittadina del sud della Serbia, lavora per un'azienda privata e ha da poco visto aumentare il suo stipendio, ma per il momento non ha il programma di lasciare l'alloggio condiviso in cui abita. Il costo della vita nella capitale serba ormai è molto alto. Ci impiego un'ora e mezzo per arrivare al lavoro, ma non posso permettermi di trasferirmi vicino all'ufficio perché si trova in uno dei quartieri più cari di Belgrado, racconta. Da alcuni anni ormai spendo più della metà del mio stipendio in bollette e affitto. Ti capisco, fratello. Qualche anno fa il Ministero dello Spazio, un ONG di Belgrado specializzata nello sviluppo urbano, ha creato una mappa open source interessante, potete andare a vedervela, ve la trovate l'articolo su balcanicacaso.org, che raggruppa annunci di abitazioni in affitto e in vendita sul mercato belgradese, mettendoli in relazione con i salari medi e mediani. L'esperienza di Stosic non è isolata, la mappa indica che in molte zone di Belgrado il costo degli alloggi è tutt'altro che abbordabile. Di recente il governo serbo ha lanciato un programma di prestiti agevolati, mi sta smattando tutto il computer, destinato alle persone tra i 20 e i 35 anni che hanno intenzione di acquistare la loro prima casa. L'acconto richiesto è solo dell'1%, migliaia di persone hanno presentato domanda, ma il programma è stato criticato per la sua scarsa sostenibilità. Altri programmi statali di prestiti agevolati riguardano solo le cittadine e i villaggi di campagna. Secondo Numbeo, un database open source, affittare un bilocale nella zona centrale di Belgrado può costare dall'equivalente di 600 euro all'equivalente di 1200 euro al mese. In periferia invece i prezzi per un bilocale variano tra 300 e 650 euro, utenze escluse. Buono. Eurostat definisce un alloggio accessibile quando il suo costo comprensivo delle bollette non supera il 40% del reddito disponibile in una famiglia. A dicembre 2024, secondo le statistiche ufficiali, lo stipendio medio mensile in Serbia montava all'equivalente di 837 euro. Un indicatore più accurato del reddito tipico è però il salario mediano, che si aggira intorno ai 680 euro. Questo significa, quindi in Serbia, lo stipendio medio è di 680 euro al mese. Questo significa che, convertito chiaramente nella valuta serba, questo significa che, sì, allora c'hanno l'euro o la loro valuta? In questo momento ho fame e non me lo ricordo. Comunque, questo significa che una famiglia di 3 persone a Belgrado con 2 stipendi mediani può pagare fino a 400 euro al mese per l'alloggio senza subire una pressione finanziaria eccessiva, spiega Arken Sandwich del Ministero dello Spazio. Gli appartamenti pubblicizzati a quella cifra però sono quasi tutti monolocali. Le famiglie sono costrette a scegliere vivere stipati in uno spazio troppo piccolo o pagare più di quanto possano realmente permettersi. È una situazione allarmante. Secondo i dati forniti dal programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti, la pandemia che la guerra in Ucraina hanno contribuito in modo significativo all'aumento del costo della vita e all'aggravarsi di crisi abitativa in Europa. A Belgrado i costi dell'affitto hanno avuto un'impennata nel 2022, aumentando del 50% in meno di un anno. Il rincaro è stato legato all'arrivo di migliaia di cittadini russi fuggiti dal loro paese dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina, molti sono andati in Serbia. Secondo i dati forniti dal programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, lo scorso anno ha segnato una tappa fondamentale nello sviluppo urbano del Kosovo. Per la prima volta più della metà della popolazione del paese vive nelle aree urbane, cioè il 50,2%. La guerra del 98-99 ha avuto un impatto significativo sulla disponibilità degli alloggi in Kosovo. Secondo Besnike Konaci di UN Habitat, il 40% delle abitazioni è rimasto distrutto e gravemente danneggiato, e così parte della popolazione rurale si è trasferita in città in cerca di un rifugio. Il panorama abitativo ha registrato un notevole aumento dell'abuso edilizio, in particolare nei primi anni 2000. Questo è avvenuto principalmente a causa dei deboli controlli da parte delle autorità e di una pianificazione urbana sufficiente. Però dice, vai, si costruisce, però la gente allora c'è un alloggio. No, perché poi dopo costano troppo, per cui la gente è costretta ad andare da altre parti. Perché per chi l'hai costruite quei posti? In questi decenni le aree urbane del Kosovo sono diventate più dense, dominate da condomini spesso costruiti senza tenere in considerazione la capacità infrastrutturale o i piani regolatori. Ne sono derivate un'espansione urbana incontrollata, una pressione crescente sui servizi pubblici e maggiori disparità tra i diversi comuni. In molti casi ci sono problemi con la fornitura di acqua ed energia elettrica, con le fognature e i trasporti. Negli ultimi anni alcune aree, specialmente quelle di Pristina, hanno sviluppato un vero boom edilizio. Secondo i dati dell'UN Habitat, il numero totale di unità abitative è cresciuto del 41%, da 412.000 del 2011 a 583.000 del 2024. È però quasi raddoppiato anche il numero di case e appartamenti vuoti, che sono passati da 100.000 nel 2011 a 183.000 nel 2024. l'aumento del numero di alloggi sfitti è strettamente legato alla folta diaspora del Kosovo. Centinaia di migliaia di kosovari vivono e lavorano all'estero. Molti di loro investono in immobili nelle loro città natali o come progetto per la pensione o per sostenere le proprie famiglie. Queste abitazioni rimangono spesso vuote per gran parte dell'anno, poiché i proprietari vi fanno ritorno solo durante le vacanze. Gli investimenti della diaspora stimolano il settore edilizio in Kosovo, ma alterano anche il mercato immobiliare perché riducono l'offerta e fanno salire i prezzi. Secondo Numbeo, affittare un bilocale a Pristina costa tra i 225 euro e oltre i 300 euro. Un appartamento con tre camere da letto viene solitamente affittato a oltre 300 euro nelle zone periferiche e a più di 600 euro nelle aree centrali. Secondo i dati ufficiali più recenti, risalenti al 2021, lo stipendio mensile in Kosovo si aggira a 558 euro netti, quindi non ti puoi permettere l'affitto in centro e l'affitto in periferia, comunque ti sveni. Non ci sono dati ufficiali che misurino l'aumento dei prezzi immobiliari avvenuti in Kosovo negli ultimi anni. Secondo la stima, comunque una stima che è stata fatta, l'aumento è stato tra il 20 e il 30%. Di sicuro l'aumento è stato notevole. Mi smatta il computer oggi, via. Anche l'Albania sta affrontando una crisi immobiliare simile, con affitti alle stelle e stipendi stagnanti. La popolazione urbana è in aumento e lo sviluppo edilizio è incontrollato, ma l'accessibilità economica rappresenta un grosso problema, specialmente nella capitale, soprattutto per i giovani. Emre Berisha, un tassista 25enne di Tirana, vive con i suoi genitori nella casa di famiglia, come il 70% dei giovani albanesi. Non vedo come riuscirò mai a permettermi di andare a vivere da solo, il mio reddito dovrebbe almeno raddoppiare. L'unico modo per andare via di casa sarebbe sposarmi e aprire un mutuo. Come Pristina e Belgrado, Tirana è il maggiore centro economico del suo paese e attira un gran numero di giovani che si trasferiscono per studiare o cercare lavoro. Diversamente da Berisha, però, molti di loro non hanno una casa di famiglia in città e sono costretti ad affittare un alloggio. Affittare un bilocale nella zona centrale di Tirana può costare 500 euro e l'equivalente di 900 euro al mese, utenze escluse, mentre può costare fra i 500 e i 900 utenze escluse, mentre in periferia 350-500. Nel 2018 l'Albania ha lanciato un prestito agevolati destinato ai giovani coppie sposate, che però ha ricevuto ampie critiche per le sue carenze. In parallelo, nel 2025 circa 1200 coppie hanno avuto accesso agli alloggi popolari a Tirana. Per poterne beneficiare devono dimostrare che il loro alloggio attuale non rispetta gli standard minimi di abitabilità, ma le domande per gli alloggi popolari superano di gran lunga la disponibilità e oltre la metà delle richieste non viene soddisfatta. In Kosovo attualmente non esistono programmi abitativi. Nel dicembre 2024 il Parlamento ha però approvato una legge sull'edilizia sociale accessibile che pone le basi per una strategia immobiliare nazionale, però ancora non in atto. Dovrebbe essere istituita un'apposita agenzia per il monitorare e centralizzare l'attuazione delle misure previste, che comprendono sussidi per l'acquisto di appartamenti. La legge estende inoltre benefici dell'edilizia popolare a chi non può permettersi un'abitazione a prezzi di mercato, fissando un tetto massimo per l'affitto al 30% del reddito familiare. Secondo un rapporto del 2014 dalla Commissione Economica per l'Unione Europea delle Nazioni Unite, l'analisi disponibile più recente, in Albania l'edilizia sociale sia pubblica che privata corrispondeva solo allo 0,1% del patrimonio abitativo e classificato come edilizia sociale. In Kosovo l'edilizia sociale è regolata dai singoli comuni, la maggior parte dei quali ha costruito o destinato edifici dell'edilizia sociale negli ultimi decenni. Come in Albania e in Serbia, l'edilizia sociale in Kosovo ha lo scopo di sostenere i cittadini più vulnerabili. Molti altri però non sono in grado di permettersi l'acquisto di una casa. Quindi la crisi abitativa, l'impoverimento dei lavoratori e il respingimento di essi dalle città in favore di spesso di palazzinari nella città di Firenze, sappiamo bene, Airbnb o comunque grosse speculazioni edilizie, students hotel, scacciano in definitiva i cittadini e le cittadine dalle città, fondamentalmente. Speriamo, io personalmente spero in un ritorno, in un ripopolamento giusto, sereno e fatto bene delle campagne, perché queste città veramente non hanno più senso, almeno per come sono pensate in questo momento. E i Balcani non sono immuni da quello che vediamo succedere anche qui da noi. Ebbene, questa era l'ultima notizia di questo Ponte Radio in quota Radio Wombat. Io ringrazio tutte e tutti per essere rimasti qui con me ad ascoltare un po' di notiziole. Se volete scriverci, potete scriverci a postawombat@insiberia.net. E niente, a presto e a risentirci sulle onde ribelli delle radio indipendenti italiane. Wombat! E viva la sciurma pirata delle onde! Tutti i venerdì, dalle 13 alle 14.30, su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat, quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.